Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Sono due le novità di giornata e non sono novità da poco. La prima, ma avete sentito le anticipazioni nel corso dell'approfondimento del giornale radio, la prima è che il Bologna è salvo, perché la cordata coordinata da Giovanni Consorte e capitanata dal patron di Segafredo Massimo Zanetti, l'ego delle agenzie, diventerà proprietaria del 100% del Bologna. La scorsa notte è stato raggiunto l'accordo, ci sarà domani un consiglio di amministrazione in cui sarà proposto un aumento di capitale, di cui in queste ore si sta definendo l'entità, che sarà sottoscritto integralmente dai nuovi soci. Ci sarà quindi una conduzione finanziaria in continuità che permetterà di evitare il fallimento. Siamo ai primi lanci d'agenzia di questa vicenda, così come dell'altra, la seconda, che riguarda invece Antonio Cassano. Antonio Cassano sarà reintegrato nell'organico della Sampdoria a partire dal 1 gennaio 2011. Questa è la decisione principale assunta dal collegio arbitrale, che però non ha ancora formalizzato il lodo. Oltre al reintegro del giocatore nell'organico della Samp dal 1 gennaio, il collegio arbitrale avrebbe disposto, e si attende la conferma ufficiale, ma è praticamente è certo, ha disposto la riduzione dello stipendio di Cassano fino al 50% a decorrere dalla data della sanzione e sino alla fine del contratto. Quindi queste le due non piccole novità di giornata al momento. Poi ci sono gli echi delle partite di ieri, quella vinta con disinvoltura dall'Inter ad Abu Dhabi, quella strappata coi denti dal Napoli a tempo scaduto, volendo anche quella ormai platonica ma comunque significativa che il Palermo ha ottenuto a Losanna. E poi, come preannunciato ieri, una bella storia d'altri tempi finita in un bel libro. La storia di Alberto Michelotti, uno degli arbitri più celebri della storia del calcio italiano, raccontata da Claudio Rinaldi per un editore parmigiano, inevitabilmente parmigiano, essendo una storia di rara parmigianità. Cominciamo dall'attualità, in attesa, ripeto, di ulteriori sviluppi sulle vicende Cassano e sulla vicenda Bologna, e sentiamo il commento di Benitez alla vittoria interista in semifinale. Sono molto contento per le ragazze perché non era facile. All'inizio abbiamo perso Schneider, ha un risentimento muscolare. Io ho visto prima Uccelli che aveva un po' di carica, stava lavorando con il fisioterapista, è la prima volta che ha ricevuto, è andato di là. Qualche volta abbiamo un po' di sfortuna, ma la squadra l'ha fatto bene. Motta è un giocatore di qualità, Stanco ci ha fatto un grandissimo lavoro dietro Milito, e si vede che con questi giocatori la squadra almeno ha più equilibrio. Manca un po' di energia ancora, perché qualcuno non ha le gambe, ma hanno la intelligenza e la mentalità. E manca ancora di un po' di salute stabile, perché stamane è arrivata poi anche la diagnosi precisa per Schneider, e si tratta, come si temeva, di stiramento al bicipite femorale della coscia sinistra, che è una diagnosi abbastanza pesante, che soprattutto è l'ennesima che riguarda l'Inter in questa stagione. E va bene, anzi, e va male. Poi mi sposterei subito a Napoli per sentire prima un flash di Cavani e poi Mazzarri. Il flash di Cavani, che è stato l'autore a tre minuti oltre la fine del tempo regolamentare, l'autore di questo mezzo miracolo che ha consentito al Napoli di essere l'unica squadra italiana che continua il suo cammino in Europa League. Diciamo che è stato un miracolo. Come l'ho detto prima, li ringrazio a Dio, perché veramente oggi è stata una partita molto particolare, è un miracolo e i miracoli sono belli, quindi sono molto felice. Quindi diciamo che questo gol e questo passaggio di turno è molto bello. Diciamo che il nostro obiettivo è allenarci e fare sempre il meglio, fare sempre il massimo, dare tutto in campo. Diciamo che è l'obiettivo che ci mettiamo tutti prima di ogni partita. Pure sappiamo che questa è una squadra che non ci possiamo mettere i limiti, e vogliamo andare avanti, quindi lo dimostriamo e facciamo sempre il meglio per continuare a camminare. Questo era, avete sentito, che lo stesso Cavani, autore del miracolo di questo, ha chiamato in causa per l'appunto questo concetto. E adesso sentiamo l'analisi invece di Mazzarri. Dopo tantissimi anni che si rifà l'Europa, a Napoli essere stata l'unica squadra italiana a passare con merito questa fase, e probabilmente incontreremo una squadra di altissimo livello, questo è solo l'incremento del processo di crescita di cui abbiamo sempre parlato, e questo va apprezzato e va capito, e ne dobbiamo essere tutti orgogliosi. Voi, che invece di cercare sempre il pelo nell'uovo, dovreste dirlo per primi, e invece a volte non capita così, sembra che dopo queste grandi imprese che facciamo si tenda a cercare qualcosa, che il capello che magari funziona un po' meno. L'importante è che abbiamo vinto meritatamente, perché le 3-4 palle gol contro una squadra così difficile da affrontare le avevamo create. E è un dettaglio vincere all'ultimo minuto. Io guardo la prestazione complessiva e dico che il Napoli ha meritato la vittoria. Questa è la cosa più importante. Facciamo un passo indietro, torniamo ad Abu Dhabi e sentiamo, questa è una curiosità, sentiamo l'ex allenatore francese del Mazembe, avversario dell'Inter ormai nella finale di sabato, si chiama Diego Garzitto. Beh, per me non c'è una sorpresa, perché sono i grandi giocatori, non hanno la possibilità di farsi vedere all'estero, tutti sono giocatori fini, che giocano abbastanza bene. E lì abbiamo trovato il giocatore al suo posto e tutto va bene, perché lì sono 13 o 14 giocatori buoni, gli altri sono un po' meno forti. Un po' meno forti. La finale sabato alle ore 18. Lori da Milano domanda: ma Moratti ora avrà capito che con quasi tutti i titolari l'Inter è un'altra cosa e Benitez, ottimo tecnico, va giudicato a fine stagione? Non lo so, è una domanda che va girata a Moratti. Vediamo cosa ha detto, anzi ascoltiamo cosa ha detto ieri a questo proposito. Io credo che quella di Benitez è stata una forte concentrazione, da grande professionista, cioè ha ripreso in mano una situazione non facile, credo, anche per quello che poteva girare intorno a lui come stampa, come dichiarazioni, come non grande sentimenti che c'erano in circolazione da parte degli interisti, perché certamente il campionato non sta andando da Dio, ma invece ha saputo riprendere in mano la situazione molto bene, con grande professionalità, grande serietà e esperienza che è contatta, perché ieri la squadra in campo l'ha messa bene, mi sembra anche psicologicamente abbia fatto un buon lavoro. Beh, insomma, come avrà sentito Lori da Milano e gli altri ascoltatori, ovviamente è tornato in Moratti che dà le pagelle agli allenatori, no? come ai suoi tempi d'oro. Gli arbitri, le principali designazioni, anche queste appena battute dalle agenzie per le partite di sabato e domenica. Allora, Milan-Roma, cioè la partita clou in anticipo sabato sera a San Siro, è toccata ad Amato di Barletta. Lazio-Udinese domenica alle 12.30, l'anticipo quindi dell'ora di pranzo, a Gervasoni, e Chievo-Juventus, altra partita clou della domenica, invece a Bergonzi da Genova. Siamo al primo intervallo, sentiamo come va su strade e autostrade. Strade in diretta. Anche oggi difficoltà per la neve lungo la 14 Adriatica, il traffico è bloccato tra Pescara Sud e Val di Sangro in entrambe le direzioni, di conseguenza nel tratto sono stati chiusi tutti gli ingressi in autostrada, chiusi anche in direzione nord le entrate di San Severo, Foggia e Poggio Imperiale, chiusa inoltre la A25 Torano Pescara come conseguenza tra Chieti e l'allacciamento con la 14, neve anche tra Calabria e Sicilia, sulla 3 Salerno-Reggio Calabria permane l'obbligo di catene a bordo. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, si rallenta per carico disperso tra Palazzolo e Rovato in direzione Brescia. A Roma intenso il traffico su entrambe le carreggiate del tratto urbano della 24 e a Napoli code in uscita lo svincolo di Arenella in tangenziale, sempre per traffico intenso. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. A tempo di sport. Torniamo in onda e ci torniamo con la storia di Alberto Michelotti. Il libro si chiama Dirige Michelotti da Parma, vita e passioni di un grande arbitro. La casa editrice è MUP, Milano, Udine, Parigi, per capirci sulla sigla, che è un'impresa strumentale, leggo dal libro, della Fondazione Monte di Parma. L'autore, un giornalista fiorentino di nascita, ma ampiamente parmigiano d'adozione, che si chiama Claudio Rinaldi. Rinaldi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io partirei dall'incipit della prefazione di Gianni Mura. Scrive Gianni Mura: quando ho letto dell'episodio al conservatorio, un episodio che Alberto Michelotti non aveva mai raccontato a nessuno e tantomeno a un giornalista, cosa che testimonia della delicatezza di Claudio Rinaldi nel suo viaggio intorno all'uomo, ho pensato che questa storia poteva essere un bel film, perché c'è dentro un sacco di roba: i fascisti, i comunisti, la povertà, la ricchezza, la solidarietà, l'umiliazione, la volontà, l'amore e di conseguenza l'odio, il lavoro, di quello pesante che sconcia, la musica, alta o bassa, vedete voi, non manca nemmeno una analfabeta che conosce il Lohengrin a memoria, l'odio di Ricino, i bombardamenti, i morti ammazzati, le botte di vita dei poveri, comprare le briciole delle paste e pazienza se qualche insetto ne disturba la dolcezza e il profumo, la scoperta dello sport prima come calciatore e poi come arbitro, il successo, le polemiche, l'agiatezza, la popolarità, anzi la fama. Mi sono anche divertito, continua Mura, ne leggo ancora un breve brano perché lo trovo particolarmente affascinante. Mi sono anche divertito a immaginare gli attori. Per Michelotti, Jean Gabin o Massimo Girotti. Per sua madre, Anna Magnani o Lea Massari. Per il regista, obbligatorio restare a Parma. Uno dei Bertolucci o Bevilacqua. Beh, mi sembra che più lusinghiere di così non avrebbe potuto essere, anche perché poi il nostro comune amico Gianni Mura non è esattamente uno che regala. No, assolutamente no. Trovo che sia affascinante e addirittura commovente per certi versi la sua prefazione, che come quasi scontato trattandosi del grande Gianni Mura è azzeccatissima. Ecco, io trovo proprio che l'aspetto bello di Alberto Michelotti, del personaggio e dell'uomo, soprattutto al di là dei trionfi nella carriera arbitrale che molti ricordano, è l'uomo che ci sta dietro, che personalmente mi ha conquistato e che sono davvero contento di aver così cercato di raccontare. Gli stenti di un'infanzia veramente in cui la miseria nera imperava, in cui non si sapeva a casa Michelotti cosa si sarebbe mangiato la sera. Lui dice di essere stato slattato con gli avanzi, cioè la mela marcia che tornava dal carretto che la madre e la nonna trascinavano nei borghi del centro della città, veniva data a lui, la parte marcia buttata e quella sana era la sua cena spesso. E da questi stenti, da questo Oltretorrente, che è il quartiere nel quale lui è nato e cresciuto, che è il quartiere più popolare, più vero di Parma, più rosso almeno fino a qualche tempo fa, e io credo che di qua discenda dritta dritta il suo carattere, il suo polso, quello per cui poi anche da arbitro famoso è diventato celebre, insomma l'arbitro di grande polso, con un fisico da vichingo che incuteva soggezione solo a guardarlo. Sì, un fisico da vichingo che poi tu racconti essere stato tale fin dalla nascita. Ho letto che questo vitello alla nascita pesava la bellezza di 6 kg. Altro che, sì, era già alla nascita, appunto, era quasi un record e poi è cresciuto molto bene, direi, sembrava davvero un vichingo, anche grazie a questa chioma bionda. Molti se lo ricordano, tra l'altro credo che sia anche significativo, Michelotti ha smesso di arbitrare nell'81, poi sì, ha continuato perché è un entusiasta, è andato in giro per il mondo, la Coppa Pelé eccetera, però come arbitro di Serie A e internazionale ha smesso nell'81, ecco, quasi 30 anni dopo il ricordo è molto vivo, questo emerge anche dalle tante testimonianze che ho raccolto. Certo. E credo che insomma sia significativo del fatto che un arbitro, al di là che sia stato molto bravo, che si sia fatto davvero ben volere e apprezzare sotto tanti punti di vista. E sono testimonianze che arricchiscono il libro, anche se, e poi lo sai da te senza bisogno che te lo dica io, il grande spessore di questo libro, di questo racconto, è davvero la prima parte della vita di Michelotti, è quello che tu hai già accennato, questo racconto della miseria di Oltretorrente allora, di come poteva nascere una famiglia, poteva crescere una famiglia tra l'altro senza padre e che non sapeva mai alla sera come si sarebbe sfamata, e forse nemmeno a pranzo, anzi il pranzo probabilmente non era contemplato, una famiglia in cui c'era un nonno che si chiamava Napoleone e che aveva una grande voce da tenore ma che non aveva potuto mettere a frutto, altri figli che si chiamavano Elsa o Tel Ramondo, protagonisti del Lohengrin, quindi questo incrocio anche affascinante con la lirica che poi tornerà a Michelotti che si chiama Don Carlo, la nonna Marietta, analfabeta, magnifica figura, che però sapeva per l'appunto a memoria il Lohengrin, la figura strepitosa di questa mamma Elsa che davvero avrebbe meritato una non una fiction, io dico proprio un vero film con la Magnani o con la Massari, come scrive Mura, comunque con una grande attrice drammatica a rappresentarla. Io credo, si ricavi da queste pagine, al di là del fascino di questa storia, ma si ricavi anche il piacere che evidentemente Michelotti alle soglie degli 80 anni, che nel frattempo ha compiuto, ha scoperto di aver voglia di raccontarsi a qualcuno, nella fattispecie a te. Sì, certo, ti dirò che ho dovuto insistere e faticare non poco per convincerlo. Lui aveva una sorta di ritrosia, forse un po' scaramantica nel raccontarsi, però poi è stato un fiume in piena, è stato bellissimo raccogliere queste testimonianze, è ancora più divertente e non assolutamente pesante poi scriverle, perché davvero è il personaggio che è vincente. Questo mi era ben noto da quando, da anni, sento raccontare questi aneddoti, appunto non solo delle celebre espulsioni di corso, della polemica infinita con Rivera, ma proprio questa infanzia, questa mi ha davvero colpito e per certi versi davvero commosso, insomma, questa famiglia, queste figure così importanti. Le donne di Alberto sono la mamma Essa di Bramante e la nonna Marietta, figure che hanno insegnato davvero un modo di vivere, di comportarsi, pur nella miseria c'era un grandissimo rispetto, una grandissima solidarietà tra famiglie, perché la povertà poi era imperante, non era solo dei Michelotti, e questa forza di questa donna che aveva fatto 4 figli e non ha mai voluto sposarsi con i padri di questi figli, perché diceva: li ho fatti, li ho sviscerati io e porto il mio cognome Michelotti. Questa famiglia di antifascisti, 2 zii di Alberto sono morti, uno messo sotto da una camioncina tedesca, l'altro morto di crepacuore dopo un inseguimento dei tedeschi, quindi era in periodi mica male, insomma, loro erano, neanche serve precisarlo, di estrazione socialista, e una vita in trincea la sua. Ripeto, credo che questa infanzia torni poi precisa nel modo di arbitrare e di porsi in campo dell'Alberto Michelotti famoso. Ripeto, questa è di gran lunga la parte che sembra romanzesca e che invece è vita vissuta e ci riporta indietro a un'Italia completamente diversa da quella che stiamo vivendo oggi, da un'Italia tremendamente più difficile e in cui, insomma, se chi cresceva, chi riusciva a crescere e a maturare, beh, poi poco o niente l'avrebbe più spaventato. E mi pare di poterlo chiedere, perché nel frattempo ci ha raggiunti in collegamento, mi pare di poterlo chiedere al diretto interessato, e quindi lo saluto. Ciao Don Carlo. Ciao Gigi, come vai? Allora, neanche a fare la porta, sono qui alla Corale Verdi, sono nel mio regno, no? Grande. Perché stiamo organizzando domani, farà un gruppo di sportivi ex crociati, facciamo un concerto e ci sarà sicuramente Michele Pertusi, che è un caro amico. Che è un signor basso, mi risulta, eh? Non ho capito. No, che è un signor cantante. Senti, è un cantante internazionale, basso internazionale. Una roba fuori dal normale. Io sono qui proprio al pianoforte, no? Con loro ci stiamo parlando. Hai intenzione di esibirti? No. Io mi siedo al pianoforte, ma più di fare mi sorcire fa faladomi un po' smiglia terra. Se c'è bisogno di simultanea interviene Rinaldi. Senti, lasciami spiegare agli ascoltatori che ti ho chiamato Don Carlo, perché sì. Alberto Michelotti fa parte da che anno? Da che anno? Dei 27? Sono 42 anni. 42 anni, che fa parte del prestigioso club dei 27. Che cos'è? È il club in cui ogni aderente, ogni evidentemente grande appassionato verdiano con tutto il pedigree in ordine, non si chiama più, per esempio, Alberto Michelotti, ma si chiama con il nome di un'opera di Verdi. In questo... Allora devi far capire ai nostri telespettatori, ai nostri radioascoltatori, che il maestro ha musicato 27 opere. Certo. E fra queste 27 opere, ogni componente del club dei 27 si chiama anche per questo, in persona l'opera che il maestro ha eseguito. E tu sei Don Carlo da 42 anni. Io sono Don Carlo l'infante di Spagna, Gigi. Certo. Che non ho perso il vizio, no? In mezzo a questa foresta immensa di Fontainebleau, silenziosa, aspetto la mia amata. E io, gioioso di aspettare questa mia amata, e quando vaga a che ne dico, oh figlio mio, perché poi ha sposato mio padre, Filippo. Certo. No? Ha sposato Filippo, quella è la trama del Don Carlo. Sì, io ti invidio molto. Ti invidio molto questa. Mamma, amor per me non ha. Questa, meraviglioso. questo tuo ruolo nel club dei 27, perché sarebbe stato davvero uno dei sogni della mia vita. Ragazzi, io vi chiedo, uno quasi vicino a un piano, anzi accostato a un pianoforte, e l'altro, Claudio Rinaldi, collegato da un altro punto di Parma, credo dalla Gazzetta di Parma tu sei, sì, in questo momento, infatti, vero? Ecco, io vi chiedo 3-4 minuti di intervallo perché dobbiamo sentire come va sui mercati, e poi tra l'autore che è Rinaldi e il protagonista che è Michelotti, vediamo di anticipare ai nostri ascoltatori tre o quattro spunti di questo libro che è uscito per la verità alla vigilia dell'estate, ma che io mi sono tenuto da presentare agli ascoltatori in quest'epoca, perché questa è l'epoca dei culatelli, delle nebbie di Parma, dei cotechini, e ci sarebbe stata tutta un'altra atmosfera. Io alternerei un paio di racconti tratti da questo libro, e lasciando al lettore il piacere di scoprire la prima parte, quella splendida, quello splendido spaccato di vita di oltretorrente degli anni 30 a Parma. A Rinaldi, per esempio, chiedo di raccontare i debutti calcistici di Michelotti, perché in pochi sanno che cominciò a giocare da portiere. Sì, ha giocato da portiere, portiere spesso in libera uscita, lo definì poi Aldo Curti, celebre firma della Gazzetta di Parma, certo. E a sua volta giocatore professionista del Parma, però era un portiere entusiasta e si divertiva molto, è arrivato a giocare in Serie C, portato poi a Borgotaro da Ferruccio Bellè, che è un altro personaggio che tornerà spesso nella carriera di Alberto, grande arbitro internazionale. E prima di Michelotti, e prima ancora aveva giocato nel Parma Vecchia, e dopodiché una frattura della clavicola interruppe la carriera di Alberto da calciatore, e all'inizio, senza troppo entusiasmo per la verità, cominciò quella di arbitro. A 28 anni compiuti si iscrisse al corso, e un'età molto avanzata, sembrava impossibile in teoria arrivare ai livelli dove invece è arrivato, ma e poi da arbitro in realtà dopo un inizio un po' difficoltoso, nel senso anche fatto di qualche incidente di percorso, tipo un pugno assestato a un giocatore che lo infastidiva, in realtà grazie alle sue grandi doti poi ha letteralmente bruciato le tappe, ha fatto in tempo a togliersi tutte le soddisfazioni che poteva. Certo, ho letto con attenzione, fosse stato solo un cazzotto a questo idiota che si era permesso di insultare sua madre, e che poi se non glielo leva dalle mani, questo già cominciava a cambiare colore, vero Alberto? Credo. Era diventato nero come un grembiale nero. Certo. Sai quei grembiali neri che avevano gli otti? Gli otti? Bisognava andare. Ecco, le bombiche via, ragazzi. Niente, lo avrei affogato. Bisognava andarci piano a toccare mamma Elsa. A Michelotti. L'Elsa di Brabante era una cosa straordinaria. Ecco, vedi, Gigi, io non ho mai avuto la fortuna di avere l'ausilio. Ho un uomo accanto come padre, mia madre ha fatto 4 figli, però devono portare il proprio cognome, perché sai cosa diceva? Ue tre simme più, li ho sviscerati io. E a quelli che gli faceva fare, diceva, ti sta bene? No, se non ti sta bene vatti a fare a lavare le mutande a casa tua, hai capito? Legava col carattere anch'io. Aveva quel carattere lì, io tento ogni tanto una... Sai a quei tempi, Gigi. Tento ogni tanto una simultanea. Alberto, raccontami di quante cambiali avete dovuto firmare tu e il tuo socio Gino nei primi stentatissimi inizi dell'officina. Dunque, a parte il fatto che abbiamo incominciato, eravamo due ragazzi, eravamo quasi due garzoni, io sono andato in officina a 13 anni, a 23 anni ero già padrone dell'officina, padrone, brutta parola, datore di lavoro. Ecco. Io infirmo pur cambiare in Ueto che tutto il mondo, no? Perché ti dico, siamo stati 40 anni in mezzo alle cambiali, no? Perché poi un signore che noi avevamo, sai, facevamo gli autotreni, praticavamo, cioè lavoravo per Liveco, che è diventato Liveco poi per la FIA, però sai, ci voleva molto spazio, noi non avevamo un grande spazio. Allora vicino all'officina mi ha detto c'è un terreno lì, dice vai, prendi queste cose. Allora era il geometra, il geometra Marani, mi diceva, ma voi dite, signor Regno, geometra non ho due lire, sono un po' ragazzo. No, ti sei un bravo ragazzo, tu sei un bravo ragazzo, e vedrai che mi pagherai. sono speculare. Allora sai, si vendeva un pezzo, si faceva un capannone, si vendeva un altro pezzo, si pagava una cambiale. Certo. No, non solo Alberto. Siamo andati avanti 25 anni che è Mezmutmo, che è una parte. Siamo andati avanti 25 anni, ogni tanto, ripeto, devo tentare la simultanea. Sì, ma oltre a tutte queste cose, ogni tanto c'era una vigilia di Natale in cui ti arrampicavi su per la Cisa per salvare i camion sepolti nella neve. Sì, allora ti dico, una vigilia di Natale, stavo andando a casa alle 8 di sera. Non farmi commuovere, dici, no. Cioè, proprio in questi momenti, guarda. Allora mi chiama una ditta che noi, cioè, loro facevano industria boschiva, si chiamavano i Pesenti a Parma, e allora avevano il camion Trerò fermo a Montelungo. Mm. Sai, alle 8 di sera vado a casa, vado lì per fare la doccia e mettermi a tavola con i miei che mi chiamano, sono andato a Montelungo, ho riparato quel tuo treno, capito? Sono tornato a casa alle 4 di notte, in mezzo alla neve fine qui, capito? Ecco, chi si forma il carattere? Ah, sicuro. La determinazione, la motivazione, quella cattiveria giusta, quel momento giusto che devi farlo, però c'è una grande concretezza, una grande volontà di essere degli onesti, di rispettare gli altri, cioè quelli che mi davano da mangiare, hai capito? Certo. Rinaldi, te lo vedi Alberto Michelotti con una di quelle divise di oggi color fucsia, color gialli, come lo vedi? No, direi proprio di no. Ma non lo vedo neanche nel calcio di oggi. Ecco, questo libro secondo me in qualche modo è anche un atto d'affetto verso un calcio che obiettivamente non c'è più sotto ogni profilo tecnico, ma anche di così umano, personaggi come quelli degli anni, non solo Alberto, tanti altri dei suoi anni, oggi non li troviamo più. Un certo rapporto che c'era tra i giocatori, adesso per parlare con l'arbitro ci ho la carta bollata, come dice Boninsegna, quando estraggono un cartellino giallo sembra quasi che abbiano un orgasmo, e allora invece si parlava, ci sono tanti episodi. Sì, si parlava fuori dai denti, perché Alberto, il tuo, chiedo scusa se ti interrompo, Rinaldi, ma è troppo bello avervi insieme. Alberto, il tuo debutto a San Siro, mancano 3-4 minuti alla fine, e raccontaci quella di corso, anche se il disco l'hai suonato tante volte. Certo, manca 3-4 minuti, naturalmente io allora ero un Verona, un Inter Verona, sì. No? Sai, era il mio esordio a San Siro, cioè, certo. È stata una partita molto facile, allora l'Inter, Jair, Corso, Massoro, sì. Picchi, sai, con campioni accettati che dovevano vincere 3-4-0. Questo Verona che stava lottando per non retrocedere. Certo. Allora, sai, questi non riuscivano a contenere questi che si difendevano, l'Inter faceva dei falli e io fischiavo. Un bel momento si avvicina Mario Corso, che poi sono diventato siamo amicissimi, che poi certo. Ti racconterò anche i fatti di Mario. Si avvicina e mi dice: ma senta, lei va avanti ancora un po' così, ma va avanti finché voi non smettete di fare dei falli. E allora lei si ricordi che qui a San Siro non viene più, non vengo più. Cartellino. Come lei non sa che sono, ma a me mi interessa meglio, fuori, mettimi che fuori te, vado fuori io, hai capito? Perché a volte sai, mi scappava anche questo problema. Cioè, caro Corso, se non va fuori dal campo lei, vado io. Sai che l'abbiamo accusato nei francesi, la Maria Luiga. Certo. Allora, sento mie fuori te, ma fuori me. Sì, un casino della Madonna, San Siro in evoluzione, si avvicinano i dirigenti, ma no, vada dentro, allora Mario così. Pedella va fuori, Pari è andato fuori, eccetera, e poi sai, ha preso 5 domeniche di squalifica, certo. E c'era la Gazzetta di Parma, che nel racconto di questo episodio ha detto: Michelotti abita in via Corso Corsi numero 5. Non male. Senti, sì, senza Rinaldi, dato che Michelotti ha fatto un certo finale, ma si è dimenticato che 2 minuti dopo, cioè quando scadeva il tempo, ha dato anche un rigore a Verona. Certo. Che poi è stato sbagliato per caso, però come arbitro lui era esattamente il contrario dell'arbitro casalingo, tant'è che come dicono Rivera, Mazzola e tanti altri, loro speravano proprio di aver Michelotti in trasferta, perché voleva dire andar via tranquilli, insomma. Senti Alberto, io ormai ci resta un minuto, anche se andrei avanti godiamoci sto minuto, fare una trasmissione che dura delle ore, vabbè. Ci sono delle cose molto importanti dobbiamo dire anche ai nostri giovani. Allora facciamo così, cominciamo oggi, abbiamo cominciato così, la prossima volta parleremo di arbitraggio, te ne dico una soltanto: quando tu dici che nel calcio, come quest'anno si sta un pochino tornando a fare, bisogna lasciare giocare di più, bisogna lasciare scorrere il gioco di più, è perché lo sport è uno sport di contatto e quindi tutte le botte che tu mi tiravi quando giocavamo insieme le nostre amichevoli erano lecite? Certo. Era questo? Certo, no, io ti dico, io non so se tu lo sai, oppure mai visto arbitrare, ma certo. Tu sei un ragazzo, capirai, allora molto per me mai visto negli ultimi anni, eccetera. Ma io, come dice il libro, dirigevo, io sì. Assistiamo tre volte in una partita, l'inizio, fine del primo tempo, l'inizio del secondo tempo e le fine, io dirigevo, io bastava che facesse uno sguardo, magari qualche volta era di troppo, però, hai capito, non è come al giorno d'oggi, ragazzi, che sembrano tutti dei capitreno, che ci sono tante volte una partita e 8 ammoniti e 2 espulsi, ma è una roba fuori dal normale. Cioè, se vuoi un dialogo, se vuoi qualcosa di importante, hai capito, devi vedere come si svolge la partita, devi avere un contatto psicofisico con questi qua. Io a volte andavo dai giocatori, ecco, il mio brutto difetto, che avevo delle manate dalla Madonna, certo. Campanati che mi richiamava e mi diceva: tieni giù quelle mani, sei un delinquente, ma poi dopo mi diceva: dai, fai bene. Alberto, io abbraccio tutti e due. Rinaldi, grazie. Grazie a te, Gigi, e un saluto a tutti. Un abbraccio affettuoso e un augurio caro di buon Natale ad Alberto Michelotti. Gigi, va avanti migliori, perché questa qui è una lezione di vita. Proprio in questo momento io a volte... Oggi di vita. Non te lo voglio dire, ma sono sempre con gli studenti, con i ragazzi. Lo so. E infatti... Questi ragazzi qui li difendo, faccio a volte il capopopolo, Hai capito? E questi ragazzi, ecco Gigi, questo è una cosa molto importante, questi studenti hanno ragione, hai capito? Che bisogna crescere in qualche maniera. È la battaglia che stanno portando avanti, che mi infonde un grande, hai capito, mi infonde una grande speranza, perché hanno voglia di lottare. Che è quello di cui c'è... Costi in belli cose, questi ragazzi qui che un giorno poi ti spiegherò, sono andata fermo ultimamente, ragazzi che portano a casa... In scienza mortale, ragazzi che fanno un'ora alla settimana, portano a casa 100-110 euro al mese. È l'argomento del nostro prossimo appuntamento, Alberto. Oggi abbiamo raccontato la sua storia, la prossima volta raccontiamo questa storia e raccontiamo che cosa fa oggi Michelotti, ottantenne. Grazie a tutti e due, un abbraccio e un caro augurio di Natale. Berry ha chiamato dalla provincia di Reggio Emilia, buongiorno. Ah, buongiorno a lei, sono Berni, è un piacere ascoltarla. Dice. Volevo raccontarle un aneddoto su il signor Michelotti, adesso sono un po' emozionato. Sì. Quando erano nei paraggi di Reggio Emilia, lì a Luzzara, veniva sempre a mangiare l'arbitro Michelotti col suo staff. Sì. C'è stato quell'anno, adesso non mi ricordo, 83-84, quando il Verona vinse lo scudetto. Lo vinse nell'85, ma lui non arbitrava già più però. No, nell'82-83, quel periodo lì, c'era Verona-Juventus. Allora, aveva dato un rigore o aveva fatto fare un gol in fuorigioco, gliel'ha dato valido al Verona, finita la partita, si sono radunati, poi sono venuti a mangiare qui di sotto, al bersagliere, Michelotti lo sa. Mio padre è juventino, è venuto fuori e gli ha detto: Cagnese un canker, prepara il magnetico, tutti coloro. Quando ha finito, gli ha detto: è finito, Sergio. Sì, ho finito, adesso andiamo a mangiare in compagnia. ed è ancora una persona, la sento, molto attiva e molto simpatica. Certo, era un classico per Michelotti, è ancora così oggi che ha compiuto 80 anni. Era la parmigianità di cui parlavo soprattutto all'inizio, cioè le passioni forti, ma che poi poi però si stemperavano in un attimo. È l'anno soltanto che è sbagliato, perché Michelotti si è ritirato nell'81, quindi lei sta parlando di un episodio antecedente. Luca ha chiamato da Pavia, buongiorno. Buongiorno. Dicalo. Io sono pavese, sono contentissimo della qualificazione del Napoli. Sì. Spero che un giorno tutti i tifosi tifino le squadre italiane, come giusto che sia, e spero altrettanto che gli allenatori che l'anno prossimo effettueranno, spero andranno in Europa League, ci mettano un po' più di impegno e di entusiasmo con le squadre italiane. Grazie. Salve. Grazie a lei Luca. Grazie per questa bella storia di calcio e di vita, scrive Max da Trieste. Sì, ma dovete ringraziare, ripeto, Michelotti e Rinaldi. Non me, io al massimo mi sono limitato a segnalarla e magari a scegliere anche il momento giusto, perché ripeto, la vigilia dell'estate, quando questo libro uscì, e ovviamente lo stesso di adesso ed era altrettanto bello, mi piacque moltissimo, ma pensai che questa era una storia più natalizia. Cesare, provincia di Latina, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Volevo fare niente, una domanda su, ho sentito che è stato riammesso Cassano praticamente in squadra. Sì. Ma il presidente non aveva detto che non c'era proprio modo, non c'era di riammetterlo? Il presidente si è affidato a un arbitrato della Lega, e la Lega ha deciso in quest'altra maniera. Poi al momento anch'io sono abbastanza curioso e sto perlustrando le agenzie per vedere quale sarà la reazione del presidente Garrone, perché mi pare che adesso sia questa la curiosità principale che riguarda lo sviluppo di questa storia. Al momento non c'è, evidentemente non se l'aspettava, e poi si vedrà. Io non credo che possa esserci un futuro per Cassano alla Sampdoria. Il fatto che sia stato reintegrato è la sentenza, dopodiché tra Cassano e la Sampdoria la storia è comunque chiusa e non credo ci siano margini di riavvicinamento. Sentiamo da Nicola Filippone che cosa può essere accaduto un 16 dicembre nella storia dello sport. Sembra ieri. 16 dicembre 1973. Nel Torino, che pareggia per 2-2 a Bologna, va a segno il giovane attaccante Ciccio Graziani, nuovo partner d'attacco di Paolino Pulici. Graziani realizza il suo primo gol in Serie A proprio nel giorno del suo 21esimo compleanno. Andrà in rete nella massima serie complessivamente 130 volte, l'ultima delle quali il 29 marzo 1987, con la maglia dell'Udinese contro la Roma, una delle sue ex squadre. Sentirei adesso un frammento di Del Neri che parla di questa trasferta juventina a Chievo. Ne abbiamo già sentito uno ieri, però è anche vero che evidentemente il dente batte lì, il dente nel senso affettivo, perché Del Neri ha conservato un grande legame sentimentale con il Chievo, e ripresentarsi su quel campo oggi alla guida della Juventus, e tra l'altro di una Juventus che funziona, evidentemente rende il tutto un appuntamento ancora più affascinante. Del Neri: giocherà chi fa parte della rosa, chi ha giocato poco, e cercheremo di fare una partita dignitosa, anche perché mi sembra che abbiamo la forza e le qualità per giocarci una partita senza affanno, senza grande risultato a disposizione, se non quello di fare un'ottima figura e un buon allenamento. Questo è il mio pensiero, affrontando una squadra di grande spessore e cercando di riuscire anche a vincere una partita in questo girone. Non snobbiamo questa partita, però penso che la Juventus adesso deve dare molta più importanza alla partita di Chievo che non a questa. Beh, infatti quella di stasera col City a questo punto è una formalità, non ci sarà nemmeno Balotelli, quindi non so se I tifosi più illuminati si esibiranno ugualmente nei confronti di Balotelli in contumacia, oppure chissà che per una sera non abbiano invece deciso di comportarsi in una maniera leggermente diversa. Pato, leggo dall'ultima agenzia appena uscita, è partito stamane per gli Stati Uniti, dove si sottoporrà a una serie di esami con lo staff medico di un luminare di ortopedia sportiva statunitense, mentre invece Gattuso si è già allenato a pieno ritmo stamane e quindi è recuperato per la partita contro la Roma. Io continuo a ringraziare Alberto Michelotti e Claudio Rinaldi per la loro straordinaria partecipazione, ringrazio Roberto Scaltritti in regia, Franco Piantanida in redazione. L'appuntamento è come sempre a domani.